24 mattino. Ieri domenica, con un freddo pungente, a Comacchio, città dell'anguilla, c'erano le sardine che non sanno neanche loro cosa vogliono, ma l'anguilla mangia le sardine. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Devo dire, quando uno alle 7 di mattina è già da un po' in macchina per andare a lavorare, sentire che il PD, quindi la sinistra, cambia di nuovo nome, fa un nuovo partito, sono veramente le cose che ti aiutano a iniziare bene una settimana. Ah, adesso sì, siamo più tranquilli. Sì, sì, siamo tranquilli, siamo tranquilli. Anche se non sappiamo se cambia nome, non cambia nome. Non un partito nuovo, ma un nuovo partito. Non un pennello grande, ma un grande pennello. Dai, si scherza, va. Seconda parte di 24 mattino, 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci le avete sentite. E siamo alla parte dedicata alla rassegna stampa, al microfono sempre Simone Spezia, e diamo il via al, guardando un po' le aperture dei giornali che sono tutte diverse oggi. Con il Messaggero che si dedica alla Libia, l'Italia invia più militari, questa la notizia. Con la Repubblica che si dedica al decreto sicurezza, è tutto come prima, titola il quotidiano. Con la Stampa che sceglie la fotonotizia della protesta di Teheran, la polizia spara sulla protesta degli studenti, e a centropagina nasce l'Europa Verde, il piano da 1.000 miliardi che sarà presentato presumibilmente domani. Col Corriere della Sera che invece punta sull'intervista al presidente del Consiglio Conte, ora la riforma dell'IRPEF. È il Fatto Quotidiano su Autostrade. La revoca è pronta, ora il PD è d'accordo coi 5 Stelle. Il Quotidiano Nazionale si dedica alla cannabis. Spinelli superpotenti, sale il rischio. Libero alla vicenda di nave Gregoretti. Si processi anche Conte sulla Gregoretti, Salvini a un complice. La Verità sceglie l'apertura sulla ministra dell'istruzione Azzolina, accusata di plagio, a capo dell'istruzione una copiona. Movimento ciclostile è la testatina. Resuscitano il PC, il giornale si dedica invece appunto alla vicenda del Partito Democratico di Zingaretti, in barca l'EU, e Conte giura ora più sinistra. Il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore del lunedì, ci parla di spese mediche, con il contante a rischio gli sconti fiscali, questo è il titolo. Si parla di pensioni, le uscite di sicurezza da quota 100 opzione donna, le misure ancora valide quest'anno. E poi il blocco del Jobs Act del lavoro autonomo, stop a tutte le deleghe. Titolo quasi scontato per la Gazzetta dello Sport, signora d'inverno sulla Juve che ottiene il titolo di campione d'inverno, e poi anche il dramma di Nicolò Zaniolo, crociato rotto, oggi si opera, europeo a rischio. Iniziamo però come sempre da qualche notizia un po' diversa che abbiamo pescato sui giornali, e partirei dalle questioni che hanno a che fare con i nostri soldi, perché sono nostri soldi anche i fondi europei che ci ritornano. Naturalmente l'Italia contribuisce, come sapete, al bilancio dell'Unione Europea, e parte di questi fondi ritorna per finanziare alcune cose, come per esempio la transumanza. Siamo sul Fatto Quotidiano, a pagina 15, e Lilli Mandara ci racconta di quello che è un vero e proprio show, lo show della transumanza per brucare fondi europei. Che cosa succede? Non solo pecorelle secche e malnutrite messe a pascolare solo per fare scena, ma anche mucche scaricate da camion con la targa Foggia a Campo Imperatore, dove non c'è rimasto manco un metro quadro di pascolo per gli allevatori locali. È un business colossale quello che sta mettendo in ginocchio i pastori abruzzesi e che sta decretando la morte di tantissime aziende, facendo girare milioni di euro di finanziamenti europei che però finiscono dritto nelle tasche sbagliate, quelle di, aperte virgolette, gentilissimi, chiuse virgolette, imprenditori del nord, che niente hanno a che fare con le mucche e le pecore, ma che hanno trovato il modo di intascare tantissimi soldi dall'Unione Europea. europea. A raccogliere la storia è, nel pezzo di Lili Mandara, una professoressa di geografia del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila, Lina Calandra, che si è imbattuta molto per caso in una serie di stranissimi episodi, facendo interviste per il laboratorio di cartografia, Cartolab, nei parchi abruzzesi. Gentilissimi, perché questi signori del nord in prima battuta si avvicinano ai pastori veri con molta cautela e qualche blandizia per convincerli a vendere pecore e terre. E hanno avvicinato persino lei, invitandola a farsi gli affari suoi. Che cosa fanno? Sostanzialmente c'è una finta transumanza. I bovini e le pecore vengono scaricati la mattina dai camion a Campo Imperatore per poi ripartire al pomeriggio sempre sui camion. Si intascano i fondi europei, questo è il racconto quantomeno di Lili Mandara, che raccoglie anche la storia di un pastore che ha fatto 3 denunce senza, a quanto pare, risultati. Appunto, così succede a Campo Imperatore e non solo là. Restiamo in aree, per così dire, montane, con un pezzo della Verità, pagina 10, di Patrizia Floder Reiter, e anche qua si parla dei nostri soldi, di sprechi pubblici, le mitiche comunità montane, cancellate nel 2010, divorano ancora i soldi delle regioni. Il governo Monti, racconta Patrizia Floder Reiter, scelse un compromesso e con il decreto della spending review del 2012 decise di trasformare le unioni montane in le comunità montane in unioni montane di comuni. A distanza di anni, 94 ne esistono ancora, secondo ANCIT, la società di servizi dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. In Trentino Alto Adige sono 22, in Veneto 2, in Lombardia 23, in Lazio 22, in Campania 20, in Sardegna 5. Rimangono anche comunità non conteggiate in attesa di essere liquidate e succhiano denaro pubblico senza fare sostanzialmente nulla. In Campania incasseranno 12 milioni ed è proprio dalla Campania che arriva uno degli esempi, perché nel piano triennale di fabbisogno, per esempio, della comunità montana del Bussento, Lambro e Mingardo nel Cilento, si segnala che i posti a tempo indeterminato sono 14, 10 sono scoperti come altri 8 part-time. Il costo del personale è stato di 916.000 euro più 110.000 euro di spesa per la sede e 185.000 di ammortamento mutuo. Indovinate quanto arriva dalla regione? Poco più di 1 milione di euro. E quindi quello che dovrebbe fare la comunità montana non lo fa, perché l'unica cosa che fa è pagare i dipendenti e gli edifici. Ci spostiamo, siamo stati in Abruzzo in apertura di rassegna stampa e ci ritorniamo, perché c'è un bel racconto di Paolo Brera a pagina 19 a proposito delle nostre infrastrutture in difficoltà, che ci porta a Silvi Marina, e siamo appunto in Abruzzo, a pochi chilometri, a una manciata di chilometri da Pescara, dove succede questo. La procura di Avellino, che sta indagando, lo ricorderete, su quell'incidente drammatico del 2013 quando un pullman senza freni sfondò le barriere e precipitò uccidendo 40 persone, ha iniziato a lavorare, questo lo sappiamo anche qua, insomma è sempre il nostro Maurizio Caprino del Sole 24 Ore che molto se ne è occupato, si è occupato di la procura di Avellino, si è interessata di dei guardrail, in sostanza, no, della sicurezza dei guardrail. Rilevando pericoli per la stabilità del viadotto Cerrano, il 18 dicembre ha imposto l'uscita ai mezzi pesanti tra Pineto e Pescara Nord. Morale: Silvi Marina è finita in ostaggio di tutto questo. In ostaggio di tutto questo vuol dire che ci passano su questa strada locale 2000 tir al giorno. Viviamo in una situazione critica, dice il giovane sindaco leghista Andrea Scordella, che fa quel che può per cercare una soluzione che non arriva. Il guaio qui è duplice e affonda appunto nella tragedia del 28 luglio del 2013 e nell'inchiesta che ne è seguita. La procura di Avellino non solo ha sequestrato le barriere e le corsie laterali del Cerrano, ma ha imposto l'uscita obbligatoria per i mezzi pesanti a Pescara Nord e a Pineto, deviando il traffico sulla statale 16 e appunto il traffico transito in questo momento è di 2000 tir al giorno. È uno dei tanti casi sul nostro territorio nei quali si accumula traffico a causa dei problemi appunto delle strade, di stabilità e di situazioni di criticità di sicurezza che hanno a che fare con appunto i viadotti. Così arriviamo a pagina 13 della Stampa con il reportage di Fabio Albanese dal viadotto Morandi, non quello che è crollato a Genova naturalmente che non c'è più, ma quello di Agrigento. Erbacce e piloni arrugginiti, il Morandi di Agrigento aspetta l'ANAS da 3 anni. È un lungo viadotto che attraversa la Valle dei Tempi di Agrigento, 2 tronconi, Acragas 1 e Acragas 2, costruiti dall'architetto Riccardo Morandi alla fine degli anni 60 del secolo scorso, fa paura anche così, deserto. Quando fu progettato il dibattito era stato sull'opportunità di farlo, di far passare un invadente viadotto stradale tra i resti di una necropoli, una sorta di sfregio alla valle. Oggi si discute di altro, se abbatterlo costruendo una nuova strada lontana dai siti archeologici o se restaurarlo e riaprirlo al traffico. L'ANAS ha scelto di restaurarlo e però appunto in attesa da 3 anni di lavori che lo rimettano in ordine. 3 anni con questo viadotto chiuso, c'è anche la foto con tutte le crepe e tutte le erbacce. Storia curiosa invece quella raccontata dal Corriere della Sera, pagina 21, ed è la storia che arriva da Sarnico, dove, come forse saprete, nei giorni scorsi sono state 2 vittime per la meningite, 4 attacchi complessivi di meningococco C, di cui 2 mortali e 1 di meningococco B nel giro di 10 giorni e nel raggio di altrettanti chilometri. E c'è questo racconto della domenica in chiesa, nella quale il prete Don Alessandro si attiene agli accordi presi con il vescovo di Bergamo e non invita i fedeli prima dell'Eucaristia a darsi un segno di pace, perché non è un obbligo tra l'altro del messale, e non sia mai che il famelico meningococco approfitti di quella benevola stretta di mano per tornare alla carica, dopo essersi portato via Veronica, appena 19enne, e Marzia, una mamma di 48 anni. La parola meningite non compare nelle esortazioni che i sacerdoti delle 12 parrocchie della Fraternità del Lago di Iseo hanno letto ieri al termine delle funzioni. Non accada che questa situazione ci divida o ci faccia diffidare gli uni degli altri. E però, insomma, un po' di diffidenza evidentemente c'è. Considerate che la popolazione fra i 18 e i 60 anni che è stata vaccinata dopo i casi di meningite nella provincia di Bergamo e Brescia nella provincia di Bergamo è al 54%, e però i vaccini sono finiti e non si riesce, almeno per il momento, a trovarli. Una pausa. Mattino. Le 7:37 minuti e 47 secondi. Paolo Mieli, buongiorno, ciao direttore. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci qua, immagino che anche oggi tu abbia iniziato la giornata informandoti sulla vita dei reali britannici, no? Come certo, rinunciare? È una questione politica, sembra una questione così di vita, di società, di monarchie, di principi. Ma io ho iniziato la giornata leggendo un articolo di Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, dove si dice che oggi è il giorno decisivo, perché oggi c'è il faccia a faccia dei 2 fratelli, Carlo e Harry, con la regina, e così Harry dovrà spiegare bene di fronte ai 2. Harry è il 6° in grado per la discendenza sul trono britannico, dovrà spiegare bene quello che farà. Sembra, è fantastico, ripeto, le sai tutte. Io leggo Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, mi informo, ma in realtà leggo anche i giornali inglesi perché sono, come dire, più informati, più attenti alla questione. Ma non è così, il primo è uno sfizio come quelli che iniziano i giornali leggendo articoli di sport. Io poi mi sono dedicato subito all'Iran e alla Libia. Eh beh, certamente, certamente. Sono questi ancora i 2 argomenti centrali, a partire direi naturalmente dalla Libia, della quale lo faccio io, insomma, perché non lo vorrai fare tu. Segnalo un tuo commento sul Corriere della Sera di oggi, dedicato tanto a quelle che sono state le posizioni dei governi precedenti quanto a quella dell'attuale e alla scelta del Partito Democratico di lasciare, insomma, il Ministero degli Esteri a Luigi Di Maio, no? Ti ringrazio, ma io mi sono fatto un giuramento, mai finché farò questa rassegna citerò Paolo. Allora lo cito io no. E basta. Senti, per quanto riguarda la situazione della Libia, appunto, c'è stata una rincorsa italiana a cercare di recuperare terreno, no? Dopo il problema con Haftar e Sarraj che non si è presentato. Sarraj poi è arrivato a Roma nel fine settimana, ma tutto si giocherà oggi a Mosca con la firma della tregua, del cessate il fuoco tra i due, appunto, nella giornata di oggi. Non solo questo, ma oggi è venuto fuori nel comunicato che convoca questo incontro di Mosca fra Sarraj e Haftar, vi invito a leggere l'articolo di Cristiano Mangani sul Messaggero, è venuto fuori il comunicato che dice che questo incontro, questa tregua fu decisa esattamente l'8 gennaio, cioè il giorno in cui a Palazzo Chigi fu fatto quel pasticcio che fu annunciato che sarebbero venuti prima Haftar e poi Sarraj, e i due non andarono insieme, andò solo Haftar, che significa che tutto ciò che è stato deciso in maniera di tregua, in materia di tregua libica, fu deciso esattamente quel giorno, che sottolinea, forse involontariamente da parte dei russi, la figura così, insomma, non brillante fatta dall'Italia. Ma passiamo oltre, adesso bisogna vedere innanzitutto se Sarraj e Haftar andranno a Mosca davvero, tutte e due a firmare la tregua sotto gli occhi di Putin, il che farebbe di Putin il regista, insomma il santo patrono di questo accordo di tregua libico. Bisogna vedere, perché i due sono due personaggi strani, magari uno non va, insomma vediamo, aspettiamo, sì. Non mi piacciono gli annunci in materia libica, aspettiamo di vedere i fatti, aspettiamo di vedere una foto dei due che firmano questa Putin, tregua, sì. E di Putin che... Dopodiché si aprirà una nuova questione, perché l'Italia sembra premere attraverso il ministro degli esteri Di Maio per creare una forza di interposizione, sottinteso comandata da un italiano, come in Libano, e ci sono dubbi nella maggioranza. Per esempio mi sembra di capire che Italia Viva non la voglia, insomma non avremo pace, ecco. Avrà pace forse la Libia, ma non il governo italiano, che continuerà a essere terremotato, come viene fuori, come si capisce tra le righe dell'intervista del primo ministro Conte al Corriere della Sera. Spiega questa intervista perché il vertice è stato rinviato dopo le elezioni regionali in Emilia e Calabria, dice che in fondo tutto va bene, apre ancora di più al PD e alla sinistra, praticamente Conte è come se fosse un indipendente di sinistra, così venivano chiamati. Sì. Gli eletti nelle liste del PC che mantengono un grado di indipendenza nella Prima Repubblica, e il PD nel frattempo è impegnato ad aprire all'EU e alle sardine. Credo che oggi Zingaretti ci sono. Oggi e domani riunisce questo conclave per quello che ha definito il Partito Nuovo, no? quella che vuole essere la rinascita del Partito Democratico, con appunto aperture alle sardine, all'EU, sardine che però restano piuttosto diffidenti, mi pare. Sì, l'ho visto, l'ho notato anch'io. Sai che dopo i reali inglesi le sardine sono la mia seconda passione. Le sardine sono prudenti, però il loro leader ieri dall'annunziata ha detto che sostanzialmente ci sta. Chi è scettica, ma non mi aspettavo diversamente, Laura Cesaretti sul Giornale. Zingaretti riapre la ditta, questo era il nome che al vecchio partito aveva dato Bersani, e porta il PD all'estrema. Da oggi il conclave in abbazia con l'incubo emiliano, se perdiamo il segretario lascia. Sì. Fino ad oggi avevano dato il PD, avevano ostentato una quasi certezza di vincere le elezioni in Emilia, forse hanno a disposizione nuovi sondaggi, ma oggi mi sembrano più prudenti, molto più prudenti, perché Salvini sta facendo in Emilia una campagna porta a porta e non si sa mai. Però intanto per il momento aprono alla sinistra unita, cioè a D'Alema, a Bersani, li riportano dentro il partito e soprattutto cercano di abbracciare le sardine. Non si capisce come, visto che le sardine non hanno una struttura di partito, però in ordine ci si prova, sardina ci... per sardina dovrebbero entrare nel PD. Piano piano, ogni singola sardina, tanto che citavi il giornale, appunto il titolo, già il titolo di apertura del giornale è molto duro, dice resuscitano il PC, insomma questa è un po' l'idea, è un partito che si sposta progressivamente a sinistra. Prima della pausa, dato che abbiamo parlato del dossier libico, ti porterei sul dossier iraniano che ci riguarda ovviamente, ma meno direttamente, almeno in questa fase, invece le difficoltà nelle quali si sta dibattendo il regime in questo momento, dopo l'ammissione che l'aereo ucraino è stato abbattuto da un loro missile, sono evidenti, tanto che a quanto pare la polizia sarebbe stata costretta a sparare avrebbe sparato sugli studenti che protestavano in piazza contro quanto avvenuto. Beh, qua il capovolgimento è davvero clamoroso, oggi tutti i giornali sono stupiti, nel senso che dopo i milioni che abbiamo visto in piazza per l'uccisione di Soleimani, adesso comincia la gente in Iran ad andare in piazza contro il governo iraniano, dicendo che devono pagare per questo abbattimento dell'aereo ucraino, che non è ammissibile che restino al potere. Cioè, nel giro di una settimana le manifestazioni hanno capovolto, non è che hanno cambiato il segno, hanno capovolto di segno, e è un regalo, sono le sorti, nelle guerre ci sono sempre momenti come questo, per cui per Trump si sta trasformando l'uccisione di Soleimani in un trionfo. Vorrei ricordare che il jet, l'aereo ucraino, scusate, è stato abbattuto esattamente nel giorno in cui sono partite le azioni missilistiche iraniane contro le basi irachene dove c'erano i soldati statunitensi. Lì non hanno fatto neanche un morto, mentre invece hanno fatto oltre 160 per l'abbattimento dell'aereo ucraino. È stata una cosa molto modesta, ovviamente un errore, un incidente. Però molti giornali si pongono il dubbio, ma si può lasciare il bottone della bomba atomica, il bottone nucleare in mano a un paese che ha un apparato così incerto, sì, così inabile? E questo dubbio affiora anche in giornali che fino a ieri non lo avevano, i giornali più anti-americani. E questo è un dato molto molto importante. Traffico. Mattino. Ci sono un po' di dossier economici aperti, uno lo riapre il Presidente del Consiglio nell'intervista al Corriere della Sera parlando di revisione dell'IRPEF, di riforma dell'IRPEF, molto se ne è parlato, e poi di revisione delle pensioni. A questo, alla questione delle pensioni, sono dedicate le prime due pagine di oggi del Sole 24 Ore, caro Paolo, molto interessanti. C'è innanzitutto, ci sono tutte le opzioni che sono ancora aperte adesso, da quota 100 a opzione donna, e poi un quadro un po' di come potrebbe essere riformato il sistema pensionistico. Sì, segnalo in particolare l'articolo di Matteo Brioschi, pensioni verso una stretta dopo il 2021, corsa alle uscite con le regole attuali. Questo ha insomma grandi ripercussioni sull'economia, perché se tutti si mettono a uscire per andare, tutti, molti si mettono a uscire per andare in pensione subito, il contraccolpo si farà sentire, non dico subito, ma subitissimo, scusatemi se ho inventato lì per lì questa parola. Un grande tema quello delle pensioni, così come, saltando i pali in frasca e cambiando decisamente argomento, è un tema che un po' domina tutte le prime pagine dei quotidiani, o meglio lo troviamo un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani, quello dell'intervento di Benedetto XVI, il Papa Emerito, che scrive un libro insieme ad un cardinale, il cardinale Sarà, un cardinale molto tradizionalista, molto conservatore, dell'ala molto conservatrice, del quale Le Figaro entra in possesso, e nel quale si parla di celibato dei preti, in quello che pare un attacco abbastanza duro a Francesco, al Papa attualmente in carica. Sì, non lo dici tu, non lo dico io, ma lo dice su Repubblica in un'intervista il vescovo di Mazara del Vallo, molto vicino a Papa Francesco, che si chiama Domenico Mogavero. il quale dice che la tempistica non è delle migliori, cioè che ha fatto male a uscire proprio in questo momento in cui il Papa oggi siamo alla vigilia dell'esortazione in cui Bergoglio potrebbe aprire invece alla fine del celibato dei preti, e Mogavero dice appunto che i tempi scelti sono stati scelti per l'appunto, e dice da parte sua il tempo, il momento è invece maturo per la riforma, che traduciamo per quelli che non seguono queste cose, ma va letto assolutamente un articolo di Jean-Marie Guenois su Repubblica. Sì. Dove che è di fatto la traduzione, che, lo diciamo, è di fatto la traduzione dell'articolo uscito sulle Figaro, quindi insomma è proprio la fonte, esatto, no, sì, che, sì. Ha ottenuto il testo. È la fonte importante che il giornale ritiene di titolare La Chiesa dei Due Papi. Ratzinger, virgolette, non posso tacere, il celibato è indispensabile, dove a parte la questione del celibato, quel dire non posso tacere vuol dire fino adesso ho taciuto su mille altre cose che non mi convincevano di Papa Bergoglio, adesso è venuto il tempo e non posso più tacere, quindi prende a pretesto una questione, diciamo la verità, sì, importantissima per la, sì, Chiesa, ma di quelle non... trascendentali, ma per far capire che sono anni e anni che lui ha delle obiezioni a Papa Bergoglio. Non è una cosa di poco momento, non è una cosa di poco momento. Di poco conto, naturalmente. Ti voglio portare, insomma, anche qua lo troviamo un po' su tutti i giornali. È scomparso nelle scorse ore un nostro grande collega, un giornalista, Giampaolo Pansa. I ricordi sono un po' dappertutto, li troviamo bene sul Corriere della Sera, naturalmente sul quotidiano La Repubblica. A lungo, per molti anni, ha lavorato per il gruppo Espresso. Che cosa ci dici, Paolo? Sì, attualmente collaborava al Corriere della Sera con degli articoli davvero molto belli di ricordi degli anni in cui è stato il maestro incontrastato di tutta una generazione di giornalisti di cui ho fatto parte anch'io, perché aveva un modo di seguire la politica brillante, intelligente, era di sinistra, è stato tutta la vita dichiaratamente di sinistra, aveva fatto una tesi fin dai tempi in cui era studente sulla Resistenza. A un certo punto decise di scrivere un libro sulla Resistenza una ventina d'anni fa, che si chiamava Il sangue dei vinti, dove metteva in luce anche alcune nefandezze di alcune minoranze della Resistenza, e questo gli scatenò contro i giornalisti, ma anche parte del pubblico che lo aveva fin lì seguito ed amato. Ma Pansa era molto cocciuto, era di Casale Monferrato, tenne duro e continuò a scrivere libri insistendo su questo tasto, libri che ebbero un successo enorme, il che voleva dire che effettivamente toccava un tasto dolente, ed ebbero un successo enorme non solo fra un pubblico di nostalgici, ma fra un pubblico, anche in un pubblico molto molto più largo, e quindi lasciò il gruppo Repubblica Espresso. Lui aveva cominciato alla Stampa, poi era passato al Corriere della Sera, poi sì, era diventato un beniamino del gruppo Repubblica Espresso, era stato vice direttore e condirettore di entrambi i giornali, e se ne andò nei giornali del centrodestra. Sì. E da lì continuò la sua battaglia. Alla fine però si può dire che prima di morire era tornato a scrivere sul Corriere della Sera, sì, sul più importante giornale italiano, e questo aveva un po' sanato la sua vita professionale. Un grande. Mi fa piacere che oggi Francesco Mello su Repubblica, Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, tutti lo abbiano ricordato senza quelle acidità che si hanno nei confronti di giornalisti che per una certa fase della loro vita sono stati nemici. Grazie a Paolo Mieli, anche per oggi ti ritroviamo nella giornata di mercoledì. GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospite il ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, appena insediato. A tra poco.